Il programma segna prima di tutto la volontà di ritrovarsi comunità in quella piazza maggiore che è proprio il luogo simbolo anche della città e della comunità, e di ritrovarci intorno anche a una grande tradizione che quest'anno fa festa. Sono i 100 anni dal Vecchione. 1922 nasceva il primo Vecchione, quindi il primo momento rituale in cui si brucia in fondo ciò che ci vogliamo lasciare alle spalle e si dà speranza anche all'anno nuovo, all'anno che verrà, per dire parole care. Quest'anno quindi abbiamo scelto di fare festa pur nella complessità del periodo, con musica, con DJ set, con il Vecchione del collettivo Parasite, e una musica che sarà diffusa anche lungo l'arco d'incrocio tra Via Ugo Bassi e Via Rizzoli, oltre Piazza Maggiore. E quest'anno, proprio per segnare anche un passo nuovo, abbiamo voluto creare una nuova tradizione, un nuovo rito, e i nuovi riti nascono da un bisogno, da una necessità e da un desiderio. Il desiderio è dare voce agli artisti, che è un impegno della politica culturale precisa di questo mandato e anche della delega che sto portando avanti, e dare voce agli artisti quest'anno ha significato pensare un nuovo progetto, un discorso d'artista affidato quest'anno con onore, con grande felicità, ad Alessandro Bergonzoni. E in questo discorso, in questo invito che Alessandro ha accolto e declinato nel modo che vedremo e sentiremo, soprattutto si coagula in una presa anche di parola, come sono i discorsi, da quello diciamo nell'immaginario presidenziale, ma anche i discorsi dei grandi premi, come i premi Nobel, che guardano con vertigine al mondo. Lì si concentra la forza di che cosa lasciamo, appunto, che cosa vogliamo trovare. Poi lì si concentra la grande arte di Alessandro Bergonzoni, e per questo gli siamo molto grati, per questa dedica che segna nella nostra città e in quel luogo appunto simbolico e concreto molto forte che è Piazza Maggiore, e che è il momento dell'ultimo dell'anno in cui riessere sempre comunità. Lei inaugura questa tradizione, questa nuova tradizione. È una responsabilità per colpa di Elena, colpa intesa nel senso di merito, e indubbiamente non è un discorso alla nazione, ma è un discorso alle persone. Poter fare un discorso alla persona è per me importante, poter irradiarlo senza farmi vedere, senza essere l'oggetto dell'osservazione, ma dell'immaginazione, che la gente possa pensare chissà dove, chissà perché, chissà quando, chissà per chi, è un'idea che mi fa pensare anche a un gesto artistico. In fondo la voce, il suono, la parola possono essere anche musica, suono e scultura, che poi scompare quando tu non l'hai dimenticata o l'hai dimenticata. Questo dipende da te. Il fatto del pensare alla Piazza Maggiore è importante, ma come dico spesso, non dimentichiamoci delle piazze minori che non ci sono. Ci interesserà vedere se gli ospedali e le carceri raggiungono anche un'intesa per poter lavorare lì dentro e far sentire questa voce a persone che non possono uscire o non devono uscire, perché mi piacerebbe che a certi rumori delle carceri venissero sostituite parole di poeti, artisti, scrittori che raccontano non solo quei suoni lancinanti e ferrosi, o non solo gli avvisi di un ospedale o le chiamate dei medici, ma le chiamate delle persone che sentono altre persone.